Quando io vedo le coppiette in palestra che stanno tutte insieme, mi vengono proprio, mi viene l'orticaria. Dei veri e propri gatti di marmo. E questa? Vogliamo farmi mancare il nutraceutico? Cioè. Quindi anche oggi parto con tre domande. Con quante esattamente? Non ho capito. Tre. E soprattutto il suo metodo e la sua parola d'ordine è? Gradualità. Ma insomma, qua questa puntata oggi c'è proprio letteralmente volata. Con noi il tempo vola. Esatto. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché? Le rendite finanziarie sono rendite, una signora anziana che ha 100.000 euro di bot, a cui, che gli rendono magari un tot di soldi, a cui si toglie 25, 30, 50 euro in più, non credo che abbia un problema di salute, diciamo. Ecco. Tanti soldi vive come un pascià. Insomma, non parte proprio benissimo, il rapporto fra il neonato governo Renzi e i risparmiatori, perché ancora prima di chiedere la fiducia hanno fatto discutere le parole di Graziano Del Rio, le avete sentite domenica scorsa nella trasmissione di Lucia Annunziata. Del Rio ha rilanciato questa tentazione che è sempre cara a molti governi, quella di inasprire la tassazione sul risparmio. È vero, Deborah, il tema è delicato, sai com'è, sono i nostri soldi, i nostri risparmi. La frase, il riferimento alla vecchietta, direi che non è felice, ma se vogliamo proprio guardare le sfumature, anche il tono non è stato adeguato. Sì, poi nelle ore successive il neo premier Renzi ha specificato, il sottosegretario Del Rio ha detto una cosa semplice, che il tema delle transazioni sulle rendite finanziarie, della tassazione sulle rendite finanziarie e il tema dei denari sulla riforma del lavoro saranno oggetto di una valutazione. Voi giornalisti, come al solito, hanno dato la colpa a noi, certo. A aggiunta avete subito titolato nel modo più pesante e forte, vi prego di stare ai fatti. Noi in ogni caso, se proprio Nicoletta la vuoi sapere tutta, pensiamo che questi 100.000 euro della vecchietta siano già tassati a sufficienza e tra l'altro non è stato neanche il primo degli ultimi giorni di commenti non questo, totalmente certo. Felici, perché anche Fabrizio Barca, che per qualche giorno è stato ministro in pectore dell'economia, nella famosa telefonata ricevuta dal falso Nicky Vendola e trasmessa dal nostro collega che abita proprio qui dietro nella appunto trasmissione dietro della Zanzara, esatto, si era lasciato andare ad un commento su una possibile patrimoniale parlando di cosa avrebbe fatto se avesse accettato di fare il ministro. Risentiamolo. Una volta chiedendomi: ma se lo fai cosa fai? E se io ti dico che faccio una patrimoniale da 400 miliardi di euro perché secondo me l'ho fatta, che mi rispondi? Va bene? Capisci la follia? Lo so. Insomma, che sia Barco Del Rio, il futuro sembra incerto, un po' come è capitato in questi mesi per l'IMU. Prima rata sospesa, poi cancellata, poi è arrivata la mini IMU. Insomma, questa incertezza poi va a risvegliare inevitabilmente emozioni che sono legittime, ma che ci risparmieremo con grande piacere. Anche perché questa parola, tanto evocata in questi giorni, patrimoniale, ha risvegliato un ricordo che ancora a molti brucia. Era il 1992, il governo c'era Giuliano Amato. Professor Andrea Manzitti, direttore del Master in diritto tributario dell'impresa alla Bocconi, ma con esperienze anche di frequentazione del Palazzo dell'Economia, poi ricorderemo per quale motivo. Ci ricorda nel 92 cosa successe e per quale motivo si arrivò a quel punto, a questo prelievo forzoso, a questo blitz di una notte? Sì, buongiorno a tutti prima di tutto. Erano anni drammatici come gli ultimi che stiamo vivendo. Il governo, il paese stava cercando di entrare nell'euro. Bisognava allora, come ora, tenere i conti a posto e il governo non trovò niente di meglio che imporre nottetempo un'imposta straordinaria dei depositi. La cosa che scioccò tutti è stata, diciamo, il prelievo forzoso non preceduto da alcun annuncio. Detto questo, bisogna mettere le cose in una giusta prospettiva, perché allora l'imposta straordinaria fu una tantum e del 6 per mille. Oggi noi abbiamo un'imposta patrimoniale a regime sui depositi bancari che è del 2 per mille ogni anno. Quindi in 3 anni paghiamo esattamente quello che venne imposto straordinariamente dal governo Amato. Il quarto anno cominceremo a pagare di più. Quindi fa più impressione una patrimoniale introdotta con un blitz piuttosto che una annunciata e attesa. Certo, se davvero l'idea di Barca si dovesse concretizzare, questi 400 miliardi che addirittura lui ha indicato, vorrei proprio capire come li potrebbe prelevare. Nicoletta. Comunque è vero, ci sono queste cose, insomma, generano ansia, ci sono cose difficili da dimenticare, sicuramente il blitz di Amato è rimasto impresso nella memoria di tutti noi, difficile quindi non rivivere un po' quella sensazione, avere anche il timore che qualcuno ci possa portare via ciò che è nostro senza neanche lasciarci la possibilità di reagire, di difenderci. Questa naturalmente è una preoccupazione forte che genera preoccupazione e ansia. Ma in linea con noi abbiamo il nostro dottor anti-ansia. Buongiorno al dottor Michele Cucchi, psichiatra e direttore sanitario del Centro Medico Sant'Agostino di Milano, autore del libro che ci state ancora richiedendo, abbiamo risposto e mandato mail a tutte, ma che si intitola Vincere l'ansia con l'intelligenza emotiva. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. Dottor Cucchi, consigli anti-ansia per tutti coloro che si stanno chiedendo quanti soldi ci prenderanno, come lo faranno e quando, e si interrogano anche sugli effetti che questo prelievo avrà sul tesoretto, piccolo o grande che sia, che faticosamente hanno accumulato. Dobbiamo far leva sull'intelligenza emotiva, forse dovremo coltivare questa intelligenza. Beh sì, effettivamente il continuo cambiamento dei contributi oltre che dei relativi importi confonde le persone che non sono totalmente in grado di prevedere la propria spesa. Questo genera incertezza, l'incertezza per definizione determina ansia, ma non solo, perché vivere costantemente con la tensione del dover fare il conto al fine mese può far uscire la reazione emotiva dagli argini della normale reazione ansiosa, determinando un vero e proprio malessere, la demoralizzazione. In un momento di crisi possono anche collassare in vere e proprie forme di disagio clinico, che è un po' fuori dagli argini. L'ansia diventa rimuginazione, insonnia, diventa somatizzazione, magari come l'emicrania, i disordini intestinali, se non anche delle vere e proprie dermatiti. Ci prova a dare dei consigli. Innanzitutto bisogna cercare di usare l'ansia, se possibile, quando è utile farlo, perché le emozioni, non dobbiamo dimenticarci, sono dei segnali che ci preparano all'azione. L'ansia, per esempio, ci aiuta quando dobbiamo affrontare una minaccia o un nemico. Usarla significa ascoltarla quando si presenta nella sua forma moderata, quindi per esempio lontano dalle scadenze. E questo è il momento di pianificare e prendere le misure sul problema, ovviamente se è possibile. Poi bisognerebbe cercare di non catastrofizzare, ovvero di non trasformare un evento che è possibile, ma scarsamente probabile, come un imprevisto, nella certezza che ciò sarà. Dottor Cucchi, comunque oltre all'ansia rimane anche un po' di rabbia, siamo anche un po' arrabbiati, diciamo la verità, ma voi insegnate, poi non so se insegnate solo o poi anche applicate, che la rabbia può essere anche un'ottima risorsa se ben gestita e, come si dice, cavalcata. Beh sì, ci proviamo anche a usarla, nel senso che effettivamente ingiustizia, sensazione di essere truffati, derubati, suscitano rabbia, però anche la rabbia, esattamente come l'ansia, è un'emozione, quindi ha un significato di utilità e adattativa nella vita delle persone. Però purtroppo ultimamente come l'ansia ci tocca eppure spesso, quindi starebbe a noi cercare di valorizzarla. Non dobbiamo farci travolgere dalla sua carica, ma dovremmo provare a controllarla. Può essere un motore importante per affrontare le difficoltà. E spesso è importante non cadere nel tranello di reagire d'impulso. Quindi dovremmo cercare di scollegare la rabbia dalla realtà dell'impulsività. Contare fino a 10. Qualcosa del genere. I vecchi consigli effettivamente ci tornano sempre utili. Poi sicuramente la cognizione, quindi diciamo il ragionamento più astratto, quello anche un po' più matematico, quello che riguarda anche i numeri, è sempre influenzata dalla pancia e quindi dalle emozioni. Per esempio, quando siamo arrabbiati, ci sono una serie di studi che dicono che siamo arrabbiati o negativi, siamo più propensi a confutare le informazioni, diventiamo un po' più pragmatici e quindi siamo meno inclini a farci vendere le cose, però bisogna sempre fare attenzione. E non sempre questo è un bene, nel senso che bisogna sempre usare le emozioni con intelligenza. E purtroppo, per esempio, nella depressione, quella clinica, quella vera e propria malattia, le nostre facoltà cognitive si appannano e la visione pessimistica si riflette anche in tempi di risposta allungati e attenzione selettiva per gli stimoli negativi. quindi bisogna sempre stare un po' attenti a trovare l'equilibrio. Ecco, se cercate un equilibrio, avete bisogno di noi, scrivete a Cuore Denari, noi gireremo naturalmente le vostre mail al nostro dottor Cucchi. Grazie dottor Cucchi. Grazie, buona giornata. Ci mancherebbe, anzi grazie mille a voi. Quindi insomma un po' di questa rabbia, certo, e noi che ci si è un po' bolle, scatenata, vedi, in questi giorni per queste notizie, la dobbiamo canalizzare. E noi vogliamo anche chiedere agli amici che ci stanno ascoltando da casa quali sono le condizioni o le situazioni nella vita che hanno l'effetto di una tassa, anche se non ci tolgono denaro, ma prosciugano energia, vitalità. Penso alle relazioni familiari, amicali, lavorative, insomma, avrete anche voi, immagino, come ce l'abbiamo io e Deborah, un amico, un collega, un capo ufficio, un figlio a cui vi sarà capitato dire: mamma mia, sei proprio una tassa. 800 24 0024, scrivetecelo, mandateci anche un tweet o un SMS se volete. Dopotutto la parola imposta si chiama così per questo, perché non è qualcosa che, come dire, riceviamo in termini volontari, ma ci viene proprio imposto. E allora all'800 24 00 24, oggi vi chiediamo se avete mai provato a calcolare quanto pagate di tasse ogni anno sul vostro risparmio. Provate a sparare una cifra, cosa vi è chiaro e cosa meno della tassazione sul risparmio, anche alla luce delle novità intervenute negli ultimi 2 anni. L'ultimo rendiconto che vi è arrivato è stato un fulmine a ciel sereno? Professor Manzitti, ma sono paure infondate o c'è qualcosa di concreto? Noi alla parola tassa patrimoniale rissiamo subito le antenne, siamo tutti in allarme, ma a volte non abbiamo ben chiara proprio la situazione, ne abbiamo talmente paura che, come ci accennava il dottor Cucchi, cerchiamo, no? Chiudiamo gli occhi. Allora vorrei chiedere, già che qua ce li apra lei, ci faccia un bello specchiettino chiaro. Una bella fotografia. Che possiamo, che possono capire anche le persone che sono un po' in ansia e quindi si fanno prendere un po' dalla paura. Ci proviamo. Allora, purtroppo le cifre spesso non raccontano la realtà. Le cifre danno spesso una mera illusione. E quando si parla di cifre sul patrimonio, è un'illusione della ricchezza, un'illusione della povertà. Mi spiego. Se noi pensiamo a una persona che considereremo ricca perché ha 100.000 euro investiti in titoli di Stato, quando i titoli di Stato rendevano il 15% o il 16%, pensava di essere ricca, si illudeva di essere ricca. Oggi gli stessi 100.000 euro rendono il 2% e pensa di essere povera. Probabilmente è sbagliato in ogni caso, si illudeva di essere povera e oggi ha una paura altrettanto infondata, perché non considera che la tassa più grande che tutti noi paghiamo sul patrimonio si chiama inflazione. Perché avere 100.000 euro all'inizio dell'anno, che poi con un 2% di inflazione a fine anno sono 98, noi abbiamo 98.000 euro di patrimonio che si è eroso per l'inflazione e abbiamo pagato una tassa occulta del 2%. Quindi la tassa patrimoniale dello 0,2% e il 2 per 1000, la cosiddetta patrimoniale sui depositi, gioca molto molto meno dell'inflazione. Così come i rendimenti, diciamo, nominali dei titoli di Stato, delle obbligazioni, se sono fissati al 2 o 3%, se l'inflazione è l'1,5%, allora praticamente il rendimento in titoli in termini reali è dello 0,5 o dell'1,5%. Quindi è difficile fare uno specchietto, ma in questo specchietto bisogna assolutamente inserire la tassa occulta più grande che abbiamo, che si chiama inflazione. Quindi diciamo, quando scegliamo il prodotto di investimento, bravissimo. Certo, quando scegliamo il prodotto di investimento sul quale magari puntiamo per accantonare il nostro risparmio temporaneo, anche quello di più lungo periodo, che può essere anche un fondo pensione, teniamo in considerazione in primo luogo quelle che sono le prospettive di inflazione, no? In questo momento è molto bassa, però proprio per questo motivo, come dire, in prospettiva è destinata ad alzarsi, di conseguenza dobbiamo contemplare questo scenario. Ma c'è un'altra cosa importante, ed è proprio tenendo conto in conto la componente inflattiva, che bisogna essere estremamente cauti nel mettere le mani sulla tassazione patrimoniale o dei redditi finanziari, proprio perché in realtà i rendimenti reali sono molto più bassi di quelli nominali. Quindi un'imposta del 20% sul rendimento nominale si tramuta in un'imposta del 40 o 50% sul rendimento effettivo. Certo, adesso ritorneremo su questa fotografia legata alla tassazione sul risparmio che abbiamo promesso ai nostri ascoltatori. Ricordo intanto che gli amici che ci seguono da casa casa possono chiamare all'800 24 0024. Noi abbiamo ricordato che il professor Manzitti, l'ho prima detto solo molto velocemente, è stato tra il 2002 e il 2005 capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia, quindi era il consulente numero uno del ministro di quel periodo. Se lei fosse oggi allo stesso posto, questa patrimoniale la suggerirebbe? Santo cielo, che domanda. Allora, in realtà in Italia ce ne abbiamo già parecchie di patrimoniali, ce le abbiamo sugli immobili, ce le abbiamo sui conti correnti, ce le abbiamo sulle barche, su tante altre cose. Quindi, secondo me, piuttosto che imporre un'altra patrimoniale, bisognerebbe cambiare tutte le regole sulla tassazione del patrimonio e mettere un'unica imposta patrimoniale sul patrimonio complessivo al netto dei debiti della persona o della famiglia, con delle larghe fasce di esenzione, perché non è giusto toccare il patrimonio di chi l'ha accumulato con i risparmi di una vita, oltre una certa misura, e invece magari con una modesta progressività, andando, diciamo, a colpire i patrimoni decisamente importanti. Esatto. Ma un'imposta sul patrimonio complessivo al netto dei debiti. E quindi, insomma, questa razionalizzazione forse indicata da Renzi è necessaria proprio per andare a colpire nel giusto qualora questo intervento si dovesse fare. Se fosse fatta così io sarei d'accordo. Allora andiamo... Abbiamo i nostri ascoltatori, certo, che ci stanno chiamando all'800 24 0024. Molto e bene. Ci sono molti ascoltatori che ci stanno mandando messaggi per raccontarci la loro situazione, ma anche per chiederci delle spiegazioni. Ottimo. Su alcuni termini che vengono dati un po' per scontato, uno li legge sui giornali ma non ha ben chiara la situazione, quindi forse sicuramente sentendo la chiarezza del nostro ospite si fanno avanti. Fatelo via sms o all'800 24 0024. C'è un termine, una parola che non capite bene, fate come me, chiedete. Daniela da Brescia, buongiorno. Ah, sì, ti riferisce a Roberto da Bergamo che chiede i rendimenti nominali, sì. Poi ci andiamo. Daniela, buongiorno. Buongiorno, il mio era un intervento non tanto critico ma soltanto per chiedere giornali, giornalisti, rappresentanti delle idee, di aver fiducia, perché adesso, cioè ora come ora, bisogna dar la forza a questo governo di provarsi, di andare, certo, avanti. Certo, Daniela, lei ha ragione. Le piace Matteo Renzi, eh? Mi piace Matteo Renzi, soprattutto mi piacciono le sue idee e come era stato tanti anni fa quando si era insediato Berlusconi, che sembrava volesse rifare l'Italia. Cioè, anche a questo, cioè, io non mi vergogno a dire ho votato una volta Berlusconi perché pensavo che fosse una persona che poteva rifare l'Italia, così come adesso vedo in questi giovani che lui ha scelto, ho sentito anche un po' ieri sera alla televisione, delle persone che ci credono, e io, anche se ho una certa età, penso ai miei nipoti, ai miei figli e dico ma proviamo. No, ma Daniela, bisogna dare fiducia. Ha un approccio che a noi piace molto, lo condividiamo totalmente. Detto questo, tutte le cose che si intendono fare è bene anche spiegarlo un po' ai nostri ascoltatori, proprio per evitare l'effetto sorpresa che è capitato negli ultimi due anni di queste, per esempio, mini patrimoniali applicate e che molta gente non conosceva e si è trovata appunto quando a fine anno è arrivato il rendiconto dei propri investimenti con questo piccolo prelievo. Quindi sicuramente, appunto, appoggiamo l'ottimismo di Daniela, perché no? Grazie a Daniela, passiamo a Giuseppe, ci chiama da Cagliari, buongiorno. Buongiorno. Attraversiamo il mare per venire da lei. Vede. Sì, d'estate. Niente, io volevo dire, in base a questo discorso di questa tassa che si pensa, cioè, ma loro ormai è l'unico, diciamo, malloppo sicuro, cash, è rimasto questi investimenti dei vecchietti alle poste, in banca, nei buoni, queste cose qua. Ma loro non pensano che se tutti questi vecchietti vedono la carta malpresa si vanno ognuno a ritirare i propri soldi, che cosa succede allo Stato? Perché già una fetta loro l'hanno presa per investirla, per darle all'Italia, giusto? Ma adesso non è esattamente stato così il travaso, comunque qualche volta forse Giuseppe ha ragione che pensa che i nostri soldi, quelli che noi paghiamo non solo come risparmio investendo nei botte ma anche come contribuenti, poi vadano a finire in operazioni strane. Giuseppe, grazie, sentiamo un commento del professor Manzitti, magari riprendendo il concetto che stavamo spiegando prima, spieghiamo qual è la tassazione in questo momento, riprendendo la figura della vecchietta indicata da Graziano Del Rio, che ha 100.000 euro in botte, che in questo momento, se prendiamo quella annuale, non mi ricordo male, forse rende lo 0,6%. tanto e quindi è già una piccola erosione dall'inflazione, ce l'ha questo investimento. No, forse l'inflazione sia un po' più alta, quindi un po' di erosione ce l'ha. Che tassazione ha questa vecchietta su questo suo portafoglio magari accumulato in tutta la vita di lavoro? Beh, innanzitutto dovrà pagare un'imposta annuale di tipo patrimoniale con l'aliquota del 2 per mille, e quindi sono già 200 euro all'anno che se ne vanno. Poi dovrà pagare sui suoi 600 euro di rendimento, dovrà pagare un'aliquota del 12,5%. Se invece di botto avesse investito in altre obbligazioni non statali, l'aliquota sarebbe stata del 20%. E questo, diciamo, esaurisce il tema della tassazione. Poi ci sono, come dicevo, i costi occulti e l'inflazione, poi i costi reali, che sono i costi dell'intermediario bancario, che ovviamente su questi rendimenti incidono tantissimo. Quindi già a fine anno questi 100.000 euro sono una cifra inferiore, quindi questo tanto per chiarire le cose, non è che stiamo parlando di speculatori audaci sul mercato, per capire appunto chi investe nei BOT italiani. Sono molte famiglie, anche se adesso sono un po' meno rispetto al passato, perché ci sono molti investitori stranieri sul debito italiano, no, professor Manzitti? Forse questi che si vogliono colpire? No, in realtà gli stranieri le imposte sul reddito e sui depositi non li pagano perché sono residenti all'estero e quindi sono esenti da imposte. Oltre il 60% del debito pubblico italiano è detenuto da investitori residenti all'estero. Quindi quando si fanno i calcoli su eventuali rendimenti o maggiori incassi, bisogna tenere conto che anche un innalzamento dell'aliquota di tassazione sui titoli di Stato andrebbe a colpire soltanto alcuni tra gli investitori italiani, principalmente le famiglie, perché le altre, le società, le banche, ovviamente pagano la loro aliquota sul reddito. Tra l'altro ieri il capo del debito pubblico italiano, Maria Cannata, ha anche quantificato quello che potrebbe essere il risultato di questo prelievo, 400 milioni di euro, poi magari spiegheremo come ha fatto questo calcolo, quindi non è... Sì, Manzitti. Sì, c'è anche da dire questo, che il Tesoro cerca di difendere la tassazione bassa sui titoli di Stato, perché oggi i titoli di Stato italiani, anche quelli di altri paesi europei, scontano un'imposizione sul reddito più bassa del 12,5% rispetto ad altre forme di impiego del capitale. In questo modo si favorisce, diciamo, promettendo una tassazione più bassa, gli investimenti in titoli di Stato. Se c'è più gente che vuole comprare titoli di Stato, i rendimenti in futuro caleranno, e quindi per quello Maria Cannata è molto contenta. Cuore e denari. Eccoci ritrovate a Cuore e Denari, ancora buongiorno a tutti. Le tasse sul risparmio ci preparano in tutta probabilità ad un altro anno di passione. Già gli ultimi due sono stati ricchi di novità, non proprio gradevoli per le famiglie italiane, a giudicare dalle prime dichiarazioni degli esponenti del nuovo governo. Il risparmio potrebbe essere ancora una volta la fonte alla quale si attingerà per rimettere in sesto le finanze pubbliche. Due anni fa, lo ricordiamo, è stata introdotta l'imposta di bollo sulle comunicazioni inviate dalle banche, su depositi bancari e postali e altri prodotti finanziari, la cosiddetta mini patrimoniale, sfuggita a molti. A dicembre abbiamo versato lo 0,15% sui nostri risparmi, nel 2014, quindi alla fine di quest'anno, verseremo lo 0,20%, 2 per mille. E oggi a Cuore e Denari vi stiamo chiedendo se avete mai provato a calcolare quanto pagate in tasse ogni anno sul vostro risparmio. Provate così ad indicare una cifra. Graziano Del Rio, domenica da Lucia Annunziata, ha parlato di 30 euro su 100.000 risparmiati da questa ipotetica vecchietta. Vi ci riconoscete? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Ma vi stiamo anche chiedendo quali sono le condizioni o le situazioni nella vostra vita che hanno per voi l'effetto di una tassa, anche se non vi tolgono denaro ma magari vi prosciugano energie e vitalità in famiglia, tra gli amici, al lavoro. Quali sono le cose che vi sentite letteralmente imposte e non riuscite a mandare giù? 800 24 00 24. Alcuni ascoltatori, tra l'altro, professor Manzitti, ricordano anche la Tobin Tax, che non abbiamo indicato nelle transazioni finanziarie. Anche questa è gravata sul portafoglio di molti investitori, piccoli e grandi che siano. È vero, ci sono larghe fasce di esenzione, in realtà si applica soprattutto sulle operazioni speculative, le operazioni in borsa, su azioni e quote, però c'è anche questo, e potrebbe esserci presto una Tobin Tax europea, il cui campo di applicazione è addirittura molto più vasto, certo, di quello italiano. Adesso sentiremo altri ascoltatori, sono pronti Roberto da Torino e Bruna da Milano, ma volevo chiedere un'altra spiegazione al professor Manzitti. Negli ultimi anni molti italiani, con lo spread che ha mandato sull'otto volante i nostri investimenti, i nostri titoli di Stato, i rendimenti di questi, e anche con le borse che hanno avuto momenti di difficoltà, adesso sono in netto recupero, hanno portato molti dei propri risparmi nei conti di deposito. Questi strumenti, che non sono esattamente strumenti di investimento ma di parcheggio del nostro denaro, come sono tassati? Sono tassati esattamente come gli altri. Da due anni l'aliquota unica sui rendimenti finanziari, sui redditi di natura finanziaria, è del 20%. Questo si applica sostanzialmente a tutti gli strumenti in cui un risparmiatore può investire, con l'unica eccezione a cui abbiamo accennato dei titoli di Stato italiani e europei, dove l'aliquota è del 12,5%. Si tratta di una misura fatta apposta per invogliare i risparmiatori a però comprare. Però anche sui titoli. Conti di deposito è finita la mini patrimoniale. Sicuramente sì. E quindi anche questa, insomma, incide. Nicoletta, prima di andare sentiamo a Torino, sì, da Roberto, e poi ritornare a Milano con Bruna, voglio leggervi un messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore. Ci scrive: sono nata in famiglia contadina povera ma serena, organizzata ad affrontare la povertà. Oggi tutti questi cambiamenti anche sulle imposte generano ansia e aggressività a tutti i livelli. E su questa idea si riconoscono molti ascoltatori che ci stanno scrivendo appunto la loro preoccupazione, perché quello che più genera ansia è questa, come sottolineavi tu, instabilità, questa situazione un po' fumosa. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Sta bene, Roberto? Abbastanza, grazie. C'è il sole a Torino? Specie quando vi ascolto. Carino. Vede. Bravo, allora. Vedi, torinesi. Falsi e cortesi, però si dice che siamo. No, cortesi. Roberto. Ci dica, Roberto. Senta, ma io da un po' che ci penso, la tassazione, quando c'è da drenare imposta, si va sull'immobile e sui titoli di Stato, sulle azioni, sulle transazioni finanziarie, su tutto quello che è risparmio scelto da un piccolo risparmiatore, piccolo medio risparmiatore. Ma dico, adesso con questa ventata di gioventù al governo e magari qualche innovazione, ma non si può cominciare a pensare di andare a tassare, ma poco, quelle che sono le altre fonti di patrimonio, tipo gioielli, opere d'arte, studiando magari un sistema che potrebbe, ecco, in linea proprio di massima di questo tipo. Mi fai un'autodenuncia dei tuoi beni, che superano un certo valore, e mi paghi un pochissimo, e quel bene sappiamo che è nella tua proprietà. Nel momento in cui c'è un passaggio di proprietà di questo bene, è tracciabile, si sa la ricchezza anche della gente, però non deve essere, ci deve essere un condono tombale. È che il problema, Roberto, questi beni qua, non saprei come altro definirle, hanno una base imponibile difficilmente quantificabile. Professor Manzitti, se io ho un'opera d'arte di Fontana appesa in casa perché l'ho comprata facendo un investimento, cioè come faccio lì a stabilire quanto vale oggi, su che cosa applico una tassazione anche, no? Cioè lì ci sarebbe un lavoro da fare veramente enorme. Poi non è detto che l'idea non sia anche attraente. Ma l'ascoltatore ha detto una cosa molto interessante, che fra l'altro mi convince molto, e cioè l'idea di abbandonare questo sistema che va a colpire in modo indiscriminato e con aliquote proporzionali, quindi uguali per tutti, determinati tipi di patrimonio, e sostituire invece con un'imposta patrimoniale unica che abbia a riferimento l'intero patrimonio, indipendentemente dal tipo di bene in cui questo è investito. È chiaro che ci possono essere dei beni particolarmente difficili da censire, da guardare, però il principio mi sembra assolutamente giusto. C'è anche da considerare che questi beni hanno una liquidabilità sul mercato poi relativa, forse anche questo è un aspetto da considerare. Il quadro di Fontana, qualora io avessi bisogno perché devo comprare casa per un parente, non è che lo vendo. Magari quello di Fontana sì, però un'altra opera d'arte può essere più difficile, no? Assolutamente, ma questo è vero anche per gli immobili. Certo. Nicoletta. Vogliamo sentire Bruna, che ci chiama da Milano. Buongiorno Bruna, benvenuta. Grazie, buongiorno e complimenti. La mia domanda forse in parte è già stata risposta quando ho parlato prima della tua ventata. Io sono profondamente convinta, e volevo il parere dei vostri esperti, sul fatto che sarebbe molto equo riuscire a tassare in un modo più significativo le speculazioni finanziarie, cioè quelli che comprano azioni e le rivendono a brevissimo termine solo perché nell'investimento di grosso capitale la percentuale di incremento per loro diventa significativa. Certo. Questo penalizza chi invece investe i suoi piccoli risparmi e le lascia lì, perché invece lui spera che quell'azione... Ma lei, Bruna, pensa che abbiamo davanti a noi un panorama di speculatori in Italia così, così ampio? No, il discorso è sicuramente più a livello internazionale, europeo, e comunque ci sono, perché le persone che stanno lì tutti i giorni a guardare come vanno le azioni per decidere se vendere o no, non sono persone che hanno investito perché credono, che so, in Fiat o in Enel, sono persone che hanno investito perché appena l'azione è aumentata di quel tot che a loro conviene, la vogliono vendere, vogliono realizzare per poi magari andare a ricomperarsela quando è riscesa di nuovo. Molto agguerrite. E questo secondo me è proprio... L'idea, diciamo, originaria della Tobin Tax era questa, Bruna, poi ogni paese europeo l'ha applicata come voleva, credo che la Francia l'abbia anche rinviata, in Italia abbiamo dato una forma che non è assolutamente stata molto apprezzata dai trader, perché effettivamente un po' sono stati penalizzati, no, professor Manzitti? Ma sì, allora, diciamo anche questo, che le imposte patrimoniali sul patrimonio finanziario hanno questo di bello per lo Stato, che si vedono poco, cioè la gente le paga e non sa di pagarle, perché vengono prelevate direttamente dalle banche e quindi con un'aliquota proporzionale. E questa è una delle più grandi ingiustizie, se vogliamo, del nostro sistema, perché è chiaro che pagare il 20% su chi ha 600 euro all'anno di rendimenti, lo stesso 20% lo paga chi ha 6 milioni di euro all'anno di rendimenti, quindi un patrimonio immenso, è profondamente sbagliato e impedisce di fare una cosa che invece sarebbe molto giusta, è quella di tassare appunto tutto il patrimonio stabilendo delle quote di esenzione, perché secondo me non è giusto pagare allo stesso modo chi ha 10 milioni di euro e quello che invece ha 100.000 euro. Probabilmente chi ha 100.000 euro dovrebbe essere tenuto immune da questo genere di tassazione, e l'unico modo per farlo è quello di rinunciare a questa tassazione anticipata, diciamo prelevata dagli intermediari, costringere, ahimè questo sarebbe un male, le persone a mettere nella propria dichiarazione dei redditi tutti i redditi e tutto il patrimonio, in modo tale che si possano stabilire delle quote di esenzione. Insomma, comunque non esistono scelte facili, certo, altrimenti le avrebbero fatte. E direi che proprio il tema della proporzione delle nuove imposte rispetto agli investimenti è da 2 anni al centro di una battaglia che si chiama Risparmiamocelo. Salva Danaio. Io non pago le tasse perché professor Manzitti stava contestando, non le piace la canzone che abbiamo messo? No, è divertentissima. Allora, chiaramente non è che vogliamo far passare questo messaggio, che è abbastanza estremo, però qualche volta un po' il modo con cui vengono poste effettivamente ci fa anche venire la tentazione. Alberto Foà, amministratore delegato di A come A SGR, buongiorno, bentornato nel nostro programma. Buongiorno, grazie. Risparmiamocelo, se volete andare a curiosare su questo sito, è il nome che A come A ha dato all'iniziativa con cui 2 anni fa voi come società avete preso di petto la nuova mini patrimoniale, perché penalizzava i piccoli risparmiatori in maniera particolarmente forte. La vostra battaglia vi ha dato anche dei buoni risultati, no? Sì, con la finanziaria di quest'anno è stata abolita la tassazione minima di 34,20 euro sugli strumenti finanziari, tassazione minima che equivaleva ad avere una imposta patrimoniale fortemente regressiva, perché i 34,20 euro per chi aveva delle cifre investite non elevatissime, come per esempio 1.000 euro, equivaleva al 3,4%, quindi molto più elevato di quello che è invece l'imposta di bollo, che adesso è dello 0,2%. Quindi l'imposta di bollo è dello 0,2% e prima, col minimo di 34,20 euro, cominciava a essere regressiva al di sotto dei 17.000 euro. Adesso questa regressività è stata eliminata, quindi pagano tutti coloro che hanno gli strumenti finanziari lo 0,2 per mille. Adesso rimane la distorsione provocata dal fatto che sui depositi bancari e postali rimane una no tax area fino a 5.000 euro e quindi anche su questo continueremo a batterci per far sì che le aliquote dell'imposta di bollo siano uguali per tutte le forme di impiego del risparmio. In 5 secondi invece su questa nuova tentazione del governo di ritornare a rimodulare la tassazione sul risparmio, FOA, vigilerete? Ma voglio dire, questa è la scelta più politica. È vero che innanzitutto bisogna distinguere fra imposta sul patrimonio e imposta sui redditi derivanti dal patrimonio. L'imposta patrimoniale dovrebbe essere un fatto eccezionale, perché il patrimonio si costruisce con risparmi derivanti da redditi che dovrebbero già essere stati tassati. Un conto diverso sono i redditi del patrimonio. Mi riallaccio a quello che diceva prima il professor Manziti, in effetti in Italia i redditi finanziari sono tassati non in linea con i redditi da lavoro e i redditi da impresa. Mi limito a dire questa cosa, che la tassazione diversa fra titoli di Stato, non solo italiani, perché la tassazione del 12,5 è per tutti i titoli di Stato di tutti i paesi della white list, quindi non solo quelli italiani ma anche quelli europei e anche quelli americani o sudafricani o australiani, quindi tutti i titoli di Stato che un risparmiatore possa avere. Questo contribuisce a creare una distorsione. Perché indirizzare il risparmio preferibilmente su titoli di Stato tedeschi, australiani, americani e italiani rispetto al reddito che si può avere impiegando il risparmio in azioni o in obbligazioni? Quindi si indirizza il risparmio, diciamo, verso titoli di Stato invece che verso l'area produttiva. Non scordiamoci che non c'è solo quando si tassa qualche cosa, non c'è solo un problema di gettito, c'è anche un problema di effetti allocativi, cioè se io tasso di più le macchine rosse e di meno le macchine blu, avrò come risultato che favorirò la vendita di macchine blu invece di macchine affronterò rosse. Questo aspetto tra e poco a proposito di macchine, noi dobbiamo andare a sentire Alberto Faccia ha lanciato proprio un assist magnifico, dobbiamo andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Cuore e denari. Risparmiamocelo è il nome dell'iniziativa che ci ha presentato Alberto Foà. Con i consigli del dottor Cucchi, nella prima parte della trasmissione abbiamo cercato di risparmiare l'ansia che l'incertezza della tassazione produce. Ma come abbiamo già anticipato su Facebook, nell'ultima parte della trasmissione, quindi dopo il GR delle 12, con il dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo, parleremo degli investimenti più semplici da fare nel quotidiano che ci permettono di avere la rendita a cui tutti noi aspiriamo, il nostro benessere fisico e mentale. Quindi, se avete delle domande da fare, se volete sapere come investire nel vostro benessere, come non farvelo portare via da tasse, iniziate a fare le vostre domande, a prenotarvi all'800 24 00 24 perché dedicheremo proprio l'ultima parte della trasmissione ai consigli del dottor Speciani che risponderà ai vostri dubbi e alle vostre domande. Quindi se volete sapere cosa mettere in tavola per stare bene oppure attraverso l'alimentazione recuperare benessere, iniziate a chiamarci e fatelo anche se sospettate che qualche elemento eroda come una tassa il capitale del vostro benessere. Andiamo alle telefonate? Ottimo. Io poi vorrei tornare con il professore sulla mia vecchiettina, ma certo. Andiamo ai nostri ascoltatori che ci stanno chiamando al nostro numero verde. Evaristo, buongiorno. E naturalmente devono continuare a farlo. 800 24 00 24. Evaristo d'accordissimo con la patrimoniale, pure quella da 400 miliardi che vorrebbe fare, vabbè che ormai non potrà fare più, Barca. Evaristo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi dato la patrimoniale. Sì, io sono d'accordo, la patrimoniale è grande. Grande perché non lo possono fare all'operaio, all'artigianetto e quant'altro. Io vorrei nomi e cognomi fatti da 40 anni di Repubblica e quant'altro impresariale, partire da loro. Quanto avete dichiarato all'anno? Tanto. Come fa avere tanti, aver guadagnato tanto, avere beni per 3, 10, 100 volte tanto? Quindi addirittura usciranno i 400 miliardi da Renzi, e me lo auguro. avrà il mio voto. Grazie, grazie, grazie Evaristo per essere intervenuto. Professore. Ma in realtà quello che chiede l'ascoltatore ce l'abbiamo già, si chiama redditometro, ce n'è una versione esatto. Diciamo nuova che non è ancora entrata in vigore, che però va esattamente nella direzione auspicata da Evaristo, cioè partiamo dalle spese, perché le spese devono essere finanziate in qualche modo e quindi chi spende tanto vuol dire che ha tanto, se non è in grado di dimostrare di avere pagato le tasse su ciò che ha speso dovrà versare allo Stato delle tasse in più con però le sanzioni. A fronte della posizione di Evaristo, non appena si pronuncia il nome redditometro si scatena invece il nervosismo di altre centinaia di persone che questo monitoraggio delle proprie abitudini di spesa proprio non lo accetta da parte dell'amministrazione fiscale. Chi sentiamo adesso? Flavio da Torino, se andiamo, sei d'accordo. Certo. Sì. Flavio. Buongiorno. Eccoci. Ci dica. Ecco, la mia, dunque, quello che volevo dire io è questo. Allora, c'è un ritorno molto, molto fastidioso. Flavio, resista. Forza. Sì, allora. Sia uomo. Abbiamo già una tassazione sul deposito titoli dell'1,5%. E che adesso diventa il 2. Allora, abbiamo una tassazione poi del 20% sulle plusvalenze. Sì. E poi abbiamo sul conto corrente l'imposta di bollo. L'imposta di bollo, esatto, brava. Ecco, vorrei sapere cos'è che ci devono tassare ancora. C'è anche il 12,5% della Poi per tutte queste transazioni, guardi Flavio, l'elencazione l'ha fatta all'inizio il professor Manzitti di tutto quello che già paghiamo, infatti ci stiamo interrogando proprio su questo. È opportuna che questa rimodulazione si faccia o meno, perché già soprattutto i depositi e i patrimoni sono stati colpiti negli ultimi anni? Vedremo che valutazione, che necessità di cassa ci saranno anche da parte del governo, professore. Ma credo che a nessun politico piaccia introdurre nuove tasse, no? Perché promettendo nuove tasse non si è eletti. Il consenso elettorale si saluta, ecco. Quindi lo si fa soltanto perché si è costretti. Io mi auguro che questo governo guardi alla tassazione patrimoniale dei redditi con un occhio diverso rispetto a quello che hanno fatto governi passati, che avevano delle urgenze, diciamo, indifferibili. E quindi cominciano a dire che i piccoli patrimoni non devono essere toccati, o quantomeno devono essere toccati in misura diversa dai patrimoni più grandi. Torniamo alla vecchiettina. Sì, professore, io vorrei tornare alla mia vecchiettina, anzi alla vecchiettina di Del Rio, i suoi 100.000 euro. Se non fossero 100.000 ma fossero un po' meno, facciamo un po' dei profili nella quale ci possiamo riconoscere tutti. Ad esempio 50.000, 20.000, 10.000 o scendo ancora? C'è una soglia al di sotto della quale non si paga nulla? In realtà no, c'è una piccolissima soglia che è quella che è stata citata poco fa della no tax area, però assolutamente diciamo minima. In realtà le imposte sono dovute con l'aliquota proporzionale, 20% sui rendimenti o 12,5%, 2 per 1000 sul patrimonio, e questo indipendentemente dall'ammontare. E questa è una ingiustizia, no? Da qualunque parte la si voglia vedere. Certo. Allora, continuiamo, forse abbiamo un minuto di tempo, non riusciamo a far nulla, però devo dire al professor Manzitti che possiamo provarci. Luciano, buongiorno da Roma Veloce. Buongiorno Nicoletta, esempio lampante, breve, io sono un papà di due bambini, cerco di diversificare i risparmi, ho aperto un conto arancio da 100 euro, quindi col pagamento dell'imposta di bollo l'ho dovuto chiudere ritirandone a malapena 60. Ho aperto un deposito vincolato per i minori e anche lì ci hanno applicato, nonostante non superasse 5.000 euro, i 34,20 euro minimi. Ho aperto negli anni per i miei bambini dei buoni fruttiferi postali, anche lì 34,20 euro. Abbiamo un conto corrente in famiglia normale dove tramite lo stipendio ed esce 34,20 euro, quindi moltiplichi per 4, per 5, i minori non sono tutelati e noi siamo andati, anziché risparmio, completamente in nero. Grazie Luciano. Beh, anche lì, appunto, conoscendo quello che succede, si può razionalizzare anche il proprio risparmio, no? Effettivamente poi queste mini patrimoniali degli ultimi due anni hanno colto di sorpresa. Un po' queste novità sulle tassazioni, in 10 secondi, se ce la facciamo, professor Manzitti, hanno dirottato le scelte di risparmio degli italiani o no? O sono state comunque ancora le banche a dirottare il risparmio delle famiglie? Ma è abbastanza difficile dirlo. In realtà le modifiche sulle tassazioni toccano veramente poco. Sono coloro che hanno i grandi patrimoni che sono più sensibili ai cambiamenti. Per gli altri, francamente, subiscono e basta. Benissimo, si è guadagnato tanti complimenti dai nostri ascoltatori, professor Manzitti. Torni a trovarci presto. Benissimo, non per raccontarci la nuova patrimoniale, naturalmente, speriamo che non sia necessario. Grazie, grazie, buona professore. Giornata. Grazie. E noi andiamo a sentire il nostro GR e subito dopo i consigli. Linea aperta col dottor Speciani, consigli sul nostro benessere. Chiedilo a Dell. Un saluto, ecco la domanda di oggi giunta via mail. Cos'è il cloud e quale soluzione è la più adatta alla mia azienda? Risponde Giampaolo Mischi, Enterprise Solution Group Director di Dell. Il cloud permette di accedere ai dati aziendali ovunque e ce ne sono tre tipi. Il cloud pubblico, che sfrutta solo risorse esterne all'azienda e condivise, come SkyDrive, incluso con Windows 8.1 Pro. Privato, che utilizza risorse interne e dedicate, o ibrido, che unisce i vantaggi di entrambe. Ogni azienda ha bisogni unici. Per scegliere la soluzione più adatta, vi consiglio di contattare i nostri esperti che vi aiuteranno a trovare ciò che fa per voi. Con le soluzioni Dell, l'adozione del cloud sarà facile e veloce e soprattutto pienamente integrata alla vostra infrastruttura IT. Vai su radio24.it, entra in Chiedilo a Dell e mandaci la tua domanda. 4 anni a tasso zero. Con l'IVA Mercedes-Benz è il tuo business che corre, non gli interessi. Oggi puoi avere Citan, Vito e Sprinter a 4 anni a tasso zero, fino a 20.000 euro di finanziamento, TAN 0, TAG 1 e 20. È un'offerta valida fino al 30 aprile, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Fogli informativi e info mercedesbenz.it. Attenzione, passiamo ora al punto più importante. Superare la crisi con nuove promozioni e pubblicità. Ma come? Con il cambio merce. Ecco la soluzione. Gruppo Next realizza subito campagne pubblicitarie ritirando eccessi di produzione o cambio di packaging, ricollocandoli su mercati nuovi. Gruppo Next, campagne pubblicitarie in Italia, Russia ed Europa senza sborsi finanziari. Per informazioni chiamate Gruppo Next e visitate il sito www.pubblicitaincambiomerce.it. Avete mai pensato che guidare può diventare qualcosa di completamente diverso? Salite a bordo della nuova 308 e lo scoprirete. La pura essenzialità di una postazione di guida come il Peugeot iCockpit, un volante di dimensioni ridotte, un grande touchscreen. Nuova Peugeot 308, designed for high sensations. Tua a 199 euro al mese con manutenzione programmata e dopo 3 anni puoi sostituirla. Peugeot. TAN 2,99, TAI 4,39, scade il 31 marzo. Info su peugeot.it. Ah, che meraviglia! Già, e da domani ti tocca tornare al duro lavoro. Vero? E se chiedessi una giornata in più di ferie? Aspetta un attimo, ecco qui, ADP Mobile Solutions. Fatto! Scusa, fatto cosa? Ho appena chiesto una giornata in più al mio capo tramite l'applicazione mobile di ADP. Ok, ma ora che ti risponde? Ah, dicevi? Visto? Domani ancora insieme, amico mio. Con ADP coinvolgi e connetti tutta la tua organizzazione. adp-italia.com. Cuore e denari. E siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione in cui vi parleremo di investimenti molto particolari. Si possono fare ogni giorno, possono essere fatti da tutti, non dipendono dal nostro portafoglio. Ah, quanto costano? Non costano nulla. Davvero? Hanno grandi rendite, guadagni. Olà. Che cosa sono, Deborina? Sono le nostre abitudini alimentari, immagino. Perfetto, abitudini alimentari, e dato che abbiamo in linea con noi un grande esperto, vi dico che ci allarghiamo e parliamo proprio dello stile di vita. Parleremo di quello che mettiamo sul piatto, ma parleremo anche del nostro sonno. Buongiorno al dottor Attilio Speciani. Ma buongiorno, oggi è una bellissima giornata, mi fa piacere essere con voi, quindi buongiorno a tutti. Ottimo. 800 24 0024, iniziate a chiamare, restate con noi. Essere e benessere. E svegliarsi la mattina con la voglia di parlare. Deborah canta. Me la canto, mi piaceva tanto. Se la canta, questa se la suona, anche a me piace. Adesso poi ci facciamo una che cantatina. Romanticone. Chissà che colazione ci meritiamo, io e te. Una colazione tanta gruenta. Esatto, ecco, non mi veniva il termine. Dottor Speciani, il mattino loro in bocca, lo dicevano i nostri nonni, la ricerca lo conferma e lei è un grande sostenitore della prima colazione, un pasto fondamentale per iniziare bene la giornata e anche per proseguirla in modo sano ed equilibrato, perché è un rifornimento di energia ad effetto prolungato. Ma non solo che, perché uno dice mi carico e a quel punto ho tutta l'energia da distribuire, è proprio che attiva, ci sono degli ormoni particolari che scattano nella prima ora dopo il risveglio, a meno che uno abbia fatto prima attività fisica, allora può anche essere un pochettino dopo, però nella prima ora dopo il risveglio una prima colazione ricca è per il corpo un segnale di ricchezza e quindi vuol dire che si consuma, che c'è produzione energetica. Sai, oggi sono tutti ammalati del fatto che tendono a mettere grasso in giro, a mettere liquidi dappertutto. Ecco, questa cosa qui è assolutamente contrastata. Quando c'è una prima colazione è come se ci fosse una ventata d'energia in borsa, a lei tutti si muovono, no? Cioè, vedi che ha fatto anche il rimando alla borsa. Ah, assolutamente, perché sento che c'è anche Deborina, come la chiama, no? Giustamente, quindi. Come Fazio chiama Lucianina. Letizia, sì. Esatto. Senta, dottor Speciani, Giulio ci ha scritto che la sua colazione noi non avremo neanche il tempo di farla, ma Deborah ci ha scritto che la fa con latte, con muesli e cereali integrali, mentre Leda mangia yogurt, caffè d'orzo e fette biscottate integrali. Possiamo dire un po' pochino. Sì, ad esempio, chi sta facendo latte, muesli e cereali, in realtà manca ancora un po' di proteine, quindi ci metterei dentro, che so, un mezzo uovo sodo, un uovo sodo, due fette di prosciutto, delle noci, e dall'altra parte invece con lo yogurt, se non ci sono ipersensibilità o reazioni al latte, ai lieviti, eccetera, va benissimo, per cui direi la seconda più equilibrata della prima. E la cosa che però io sostengo quando imposto dei piani nutrizionali per le persone, che la prima colazione deve essere sfamante, cioè uno deve proprio alzarsi e dire oh che bello, adesso mangio abbondantemente e mi riempio la pancia, che è sempre una stupidaggine, però lo stomaco un pochettino gonfio in realtà ferma la grelina è un ormone che fa venire una fame bestia, come dire, no? quindi le persone che hanno paura non si preoccupino, la prima colazione dopo una mezz'ora la pancia torna di nuovo piatta, però la grelina è fermata lì e nessuno poi ha fame mangiando biscotti, cracker, grissini e altre cose nel corso della giornata, che poi quelli si mettono sui fianchi o su altre parti che non si muovono più di lì, no? Sì, perché stiamo tutti attenti al grammo, a quello che mangiamo, e poi mangiamo biscotti con grassi idrogenati vegetali e quindi temiamo tutti il colesterolo i chili in più, ma poi cadiamo in questi errori così banali. Posso e poi, dirlo? Poi io volutamente ho parlato delle uova adesso, sì. No? Perché questo è proprio un investimento importante. Io lavoro anche a Londra e devo dire là più di qui, perché là manca un po' il sole italiano, complessivamente. Abbiamo tante cose in più ma manca il sole, o quasi, perché poi negli ultimi tempi l'abbiamo un po' perso. Però c'è un problema con le uova. Io dico che vanno sfatati dei miti. Voglio riportare in auge il fatto che degli articoli usciti anche dal 2010, 2011, British Medical Journal ne ha parlato, cioè la rivalutazione dell'uovo. L'uovo di per sé non è un elemento negativo, anzi a basso costo, visto che ne parlavamo poco fa, consente un buon apporto di proteine, ma quel rosso fantastico che molta gente toglie perché dice c'è dentro il colesterolo, ma c'è dentro anche un mucchio di vitamina D3, che è fondamentale per la salute, per l'equilibrio e soprattutto allunga i telomeri, come se aumentasse il conto in banca. I telomeri sono delle parti che rendono conto di una sopravvivenza, come dire, prolungata. La vita cellulare si allunga. E allora la vitamina D3 è giusta, quindi il rosso d'uovo al mattino viene bene. E qui tolgo un mito, dico spalmarsi un po' di burro crudo sano, crudo, non cotto, fritto, che quindi ha delle particolarità, su una fetta di pane integrale contiene vitamina D3 ed è una cosa che ci possiamo concedere con serenità. Quello che diventa problematico è quando i burri o i grassi li friggiamo o li cuociamo in maniera pesante. Quindi voglio sfatare due miti e dire che questi sono piccole aggiunte che aumentano il nostro, tra virgolette, conto in banca della salute. Molto bene, allora noi da domattina il conto in banca lo chiamiamo telomero, però così almeno è più digeribile per tutti. Dopodiché leggiamo il messaggio di Angelo da Catania che ci racconta cosa fa il mattino. Intanto si sveglia alle 5, ore 6 palestra, ore 7 colazione, 100 grammi di riso con miele e succo d'arancia. Promosso? Dunque, se il riso fosse un riso integrale, che quindi ha dentro quasi il 14% di proteine, sì. Se è un riso bianco, no, bocciato assolutamente, perché è una colazione che diventa solo di carboidrati, quindi manca un equilibrio con proteine vegetali o animali che uno desideri. Invece, questo tra l'altro ce lo diciamo a livello sociale, uno dei problemi severi che sta affliggendo sia l'India che la Cina a livello popolare è l'aumento del diabete in maniera potente, ma veramente devastante, e proprio perché vengono fornite, anziché derrate alimentari con il riso integrale, che quindi ha dentro fibre e proteine, con risi sbiancati, e questo porta a un aumento immediato della glicemia. Quindi cerchiamo, questo è un altro dei suggerimenti che possiamo aumentare quel conto in banca. L'integrale non deve far parte di una cosa per eletti o per persone strambalate. L'integrale fa parte della naturalità e ci consente di vivere molto meglio. Sapessimo quante cose fa l'integrale su tutti i piani, potrei mettermi a parlarne, ma siccome non so com'è l'ambiente lì, direi che 800 è un ambiente accogliente. No, assolutamente, allora certo. Parliamone, forza. Certo. 800 24 00 24 se volete chiamare per parlare con il dottor Speciani. Oltre che a scrivere, Adriana ci scrive proprio un messaggio per il dottor Speciani, due punti. Wow. Come consiglia spesso, io mangio semi e frutta secca, ma le mandorle vanno utilizzate con o senza bucce? Allora, entrambe vanno bene. Io le utilizzo con la cucina, che è meglio perché abbiamo un pochettino più di fibra, però anche quelle bianche, l'importante è che non siano arrostite e salate, perché in quel caso i fantastici grassi che hanno dentro, che sono dei grassini, sono degli omega 3 e degli omega 6, ma che hanno un'azione protettiva veramente potente, in realtà si cambiano la loro struttura e poi non funzionano più. Quindi noi sappiamo, sulle mandorle io le apprezzo entrambe, devo dire che non mi sto a porre problema, tendenzialmente le mangio con, anche perché cambiano un po' il colore, c'hanno dentro, quando poi li mischi con i cereali che sono bianchicci, se la mandorla bianca poi tutto bianco, no, insomma ci vuole qualche colorino in più, è un marrone che suona bene, no? Però vanno bene tutte e due, assolutamente. E poi ricordiamo che, come lei ce l'aveva già raccontato più volte in trasmissioni, semi oleose svolgono una sorta di prevenzione, di controllo nei confronti dell'Alzheimer e della demenza. È fantastico, questo lo posso raccontare serenamente. Un giorno stavo facendo un corso di formazione in un grande albergo ad un gruppo industriale e spiegavo questa cosa nella lezione del pomeriggio, della sera. Sì. Il mattino dopo, a colazione, questo grande albergo è andato in deficit di noci, cioè tutti hanno preso le noci, avendo spiegato che 2-3 noci mangiate ogni giorno in realtà hanno un'azione documentata. C'è un bel lavoro che è stato pubblicato su Neurochemical Research ancora nel 2012, in cui c'è proprio questo effetto protettivo sulla demenza e sull'Alzheimer in genere, dato dagli oli che sono presenti all'interno delle noci. La mattina dopo colazione non c'era più una noce a pagarla, l'albergo è andato assolutamente in crisi, era un grande albergo che proprio dovuto averlo, quindi questo è un segnale del fatto che funziona, la gente si è ricordata di mangiare la prima colazione in modo giusto. Allora ci scrive Dino un sms dicendo: perché ci imponete gli sms che costano? Ma noi diciamo potete raggiungerci via mail al nostro numero verde che non costa, 800 24 00 24, potete darci un fischio, seguirci su Twitter, su Facebook, insomma, caro Dino, l'importante è che lei si metta in contatto con noi. E lo ha fatto per esempio all'indirizzo di posta di Cuore Denari Flavio, che vuole anche in questo caso fare due domande al dottor Speciani. Perché alcuni nutrizionisti dicono che banane, fichi e cachi non vadano bene, ma è possibile? Ma non mi pare che sia mai stato perentorio nelle sue indicazioni, professor Speciani, in questo senso. Assolutamente no, qua proprio spezzo un lancio a favore di questi frutti che sono in realtà vengono considerati malamente, perché hanno qualche caloria in più di altri. Il problema non è la caloria, quello che sta emergendo dagli studi ultimi e sempre più affermati è che in realtà le persone non ingrassano perché hanno un eccesso di calorie, ma magari perché le mettono nel momento sbagliato e le bilanciano in modo scorretto. Allora, quando uno mangia una frutta come può essere il caco, il fico, come può essere la banana stessa, all'interno di una prima colazione che è bilanciata correttamente, noi abbiamo degli effetti normalissimi, fantastici, cioè nel prodotto tutto in sé si mischia con il resto, in una situazione dove io addirittura chiedo di mangiare in maggiore abbondanza, va benissimo a quel punto, nessun effetto di tipo ingrassante. Tutti i nutrizionisti che lavorano tristemente solo sull'aspetto calorico, e ripeto, è una evoluzione scientifica inesorabile, tutti i lavori importanti che stanno uscendo in quest'ultimo periodo stanno surclassando questo tipo di concezione, e per cui quindi si mangiano i cachi, anzi che buoni i cachi, fantastici, mi dispiace che sono finiti, peccato. Bravo, non è caduto nel tranello della stagionalità. Furbo, senta, mangio noci tutte le mattine, vedi. Parliamo di quelle fragole che ho visto ieri dal fruttivendolo, gli volevo fare 2-3 domande, però lì mi sono contenuta, ecco. Però vabbè. Dunque, allora, stagione zero, fragole non ci sono. No. Io vorrei ricordare alla gente che io, che sono ormai del secolo scorso, ma ormai a vito supero i 58 anni, quindi mi ricordo che i pomodorini si mangiavano solo da maggio verso settembre-ottobre. No? Oggi noi abbiamo pomodoro sempre da tutte le parti. Le fragole secondo me sono un Teniamo, po'... bisogna aspettare un po', dai. Bisogna aspettare un ecco, po'. Però non è mai troppo tardi, e questo dico ad Enrico che ci scrive da Rimini, perché ci scrive: ma iniziare a 50 anni è tardi? Io penso che si riferisca a mangiare bene, poi non so quale, che cosa vuole iniziare a 50 anni, ma generalmente possiamo dire che non è mai troppo tardi, e non è ancora tardi per intervenire in trasmissione all'800 24 00 24. Clara dalla provincia di Reggio Emilia e Maria Teresa da Bergamo ci hanno infatti chiamato, e poi abbiamo anche Marco da Modena. Clara, buongiorno. Sì, buongiorno al dottore, a Nicolette e a Deborah, complimenti. Eccoci. Io volevo chiedere una cosa al dottore. Mio figlio fa un turno lavorativo che va dalle 7:30 del mattino alle 3 del pomeriggio, con uno spazio di mezz'ora circa verso mezzogiorno l'una. Lui segue da una vita, ha fatto per una vita delle diete, sì, che è con molta fatica. Ultimamente ci siamo autonomamente risolti a seguire un regime che comunque rimane un regime controllato, che però lui riesce in questo modo a controllare il proprio peso. E si tratta al mattino di fargli fare un pranzo, direi un pranzo, un no? pranzo. Una colazione. Sì. Quindi, che so, stamattina ha mangiato pesce, verdure, succo di frutta e un po' di pane. Sì. E poi a l'una una cosa leggera. Si prende uno yogurt. Clara, le sto mettendo un po' di premura perché la giornata è lunga, ma la trasmissione alla si chiude. Una cena normale. E vorrei sapere se secondo certo che piani, va bene. Ecco, Clara punta sulla prima colazione, un pasto a tutti gli effetti. L'assumono, la fanno venire a Cuore Denari direttamente. Allora, suo figlio fa esattamente quello che noi chiediamo, cioè trasformare la prima colazione in un pranzo ricco, che sia quello più importante della giornata, per cui ne deriva che successivamente fa esattamente una situazione che mantiene uno stato di benessere complessivo. Ha tutto il mio appoggio, non solo altro. Io allora, tra l'altro, poi c'è chi riesce a mangiare il pesce con le carote al mattino, io non riuscirei mai, ma colazione dolce o colazione salata, dottor Speciani, così tutte rispondiamo due all'ascoltatore che dice perché sempre il dolce. Insomma, uno mangia un po' quello che gli piace e cerca di mangiare bene. Maria Teresa, buongiorno a lei da Bergamo. Pronto, buongiorno, complimenti, grazie. Grazie, complimenti anche a lei che ci ha scelto. Io sono diventata bravissima, ho seguito molto i vostri consigli. Brava. Mangio le fatidiche 3 noci al mattino, bevo 2 litri d'acqua anche per altri motivi durante la corsa della giornata, e la mia colazione al mattino consiste in un'abbondante scodella di latte, che sono amante del latte. E poi io faccio un misto tra dolce, cioè cereali dolci e cereali integrali, ho fette biscottate integrali, una fetta di torta fatta da me in casa, perché sono celiaca, per cui faccio io, sì, o focaccia fatta da me, senza sale ma con rosmarino. Sì, Maria Teresa, passi anche al centro, mandi anche qua a noi. Dottor... I prodotti integrali, siccome soffro di colon irritabile, se assunti con quantità moderate, perché anche a mezzogiorno mangio un po' di pasta, però l'ho trovata buona quella integrale. Sì, tra possono, vanno bene? O fanno male? Sfatto un mito, un altro mito, oggi ne rompiamo qualcuno. Sì. È documentato che addirittura i semi oleosi, noci, nocciole, mandorle, l'integrale, anche nelle persone con colite, con diverticoli, sono assolutamente indicati. Qual è l'unica avvertenza? Che quando uno non è abituato, perché magari ha mangiato solamente verdurine bollite, filtrate e passate per un tot di tempo, bisogna reiniziare con gradualità, come un bambino che fa lo svezzamento, quindi ci vuole una piccola gradualità di introduzione, e nel giro di un paio di mesi una persona da non mangio nessun tipo di fibra arriva a mangiare la fibra regolarmente. A quel punto l'intestino funziona meglio e tutto ne abbiamo, perché abbiamo un guadagno complessivo dall'integrale che è assolutamente, potremmo stare a discuterne e misurare, è come con l'applausometro di una volta, quanto sale noi il valore. Noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo però. Gli applausi. Adesso Gianmarco li tira subito fuori. Posso chiedere, eccolo qua, Ale! Perché ci sono tantissimi ascoltatori che stanno chiedendoci di prestare un po' di attenzione ai pistacchi, che se ne trovano solo molto saporiti, sì, salati. Però io sono Lucio da Verona, ce lo scrive, dice si trovano solo salati. Errore, Lucio! Ma i pistacchi di Bronte, che sono una cosa magnifica, e non solamente quelli di Bronte, si trovano anche al naturale, non salati. Dottor Speciani, vede che anch'io rompo un piccolo sfatto, un mito. Li mettiamo a colazione? Sono sì, assolutamente sì, sono fantastici. Poi, se posso dire, io ogni tanto, devo andare dietro a Deborah quando diceva all'inizio qualcosa sul costo. Ecco, se andiamo sul pistacchio, un minimo di costo in più lo paghiamo rispetto Sì, però non tutto. È che ne dobbiamo mangiare 10 euro a colazione. Infatti, sono sempre quantità. C'è una cosa che amo tantissimo, che poi metto sulla pasta integrale ogni tanto, che è la crema di pistacchio, assolutamente fatta solo col pistacchio frullato insieme. Meraviglia, è un apporto di proteine, di grassi, non hai bisogno di aggiungere nulla. Non è un po' dolce per la pasta? No, molto buona. Adesso altro che vinci sgrassi. No, ma l'ho provata anch'io, però mi sembrava un po' dolce. Vabbè, comunque proveremo anche questo. Buongiorno a Marco, che ci chiama da Modena. Buongiorno. Buongiorno. Per la trasmissione. Bravo, la mia Marco. Domanda è questa. È corretto alzarsi, fare attività fisica, come può essere un po' di corso oppure un po' di nuoto, e fare dopo una abbondante colazione? Ma certo, Marco, dottor Speciani, l'importante è fare una buona colazione e muoversi c'è un dato importante, che l'attività fisica, soprattutto se è un po' intensa, va fatta a scorte piene, cioè avendo mangiato la sera prima, e stomaco vuoto, per cui è assoluto, se c'è un impegno discreto, importante, uno fa un po' di ripetute, corre un po' lungo, eccetera, è meglio andare a stomaco vuoto, senza aver mangiato niente, magari bevuto un po' d'acqua, una tazza di tè o qualcosa di questo genere, e poi mangiare dopo che si è fatta l'attività fisica. Quindi questo è assoluto. C'è Marco, quindi Bianchi. Bravo, direi che Marco da Modena si comporta adeguatamente. Bene, bravo. Ci vorrebbe anche per lui un applauso. Noi abbiamo ancora tante telefonate dei nostri ascoltatori e messaggi, ma il tempo è tirannissimo. Possiamo però dire a Bruno che questa trasmissione si può trovare in podcast. Certo. Oh yes! E quindi poi tutte le domande ce le potete fare su Facebook, perché il dottor Speciani ogni tanto va a curiosare sul profilo di Cuore e Denari e risponde a tutti quanti. Se non volete utilizzare Facebook, scrivete. E poi il dottor Speciani ritornerà molto presto. Sì, a molto presto a trovarci. Dottor Speciani, grazie. Grazie e grazie, buona giornata. Voi, state bellissime e bravissime, come sempre. E buona grazie. Colazione a soprattutto tutti. Belle. Assolutamente. E giovani, quello è vero. Allora, vi ricordo, grazie dottor Speciani, la nostra iniziativa Cuore, Denari e Vitali. Allora, volete andare sulla pagina di Cuore Denari, leggervi gli incipit, mandarli entro martedì, che è oggi, entro mezzanotte, quindi avete ancora tempo. Ricordando che nell'incipit di Cuore dovete inserire per completare il racconto la parola pelle. Invece nell'incipit di Denari per completare il racconto dovete utilizzare la parola, speriamo di ricordarmelo, vestito. È quello? Sì. No, vestito. Vestito. Uno scherzetto, a domani. A domani.